Essere e benessere di Nicoletta Carbone. È cominciato il secondo round. Non è cambiato il tema di Apollo, che continua con i suoi precisi jab sinistri e Rocky incassa una quantità incredibile di colpi. Rocky è in balia dell'avversario, che lo sta spingendo di nuovo nell'angolo. Balboa reagisce, sembra non accusare tutti i suoi colpi. Ora è lui all'attacco e investe Apollo con una serie di destri e sinistri. Vi ha preso? Dove vi ha colpito? Oppure l'avete schivato? Buongiorno da Nicoletta. A volte lo stress ce le suona e ne usciamo ammaccati come un pugile dopo un incontro sul ring. Eppure, care amiche, cari amici, possiamo evitare di farci mettere KO. Buongiorno al dottor Speciani, che è qua in studio con me, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei sarà il nostro allenatore e anche se è vero che non bisogna mai sottovalutare l'avversario, è bene subito dire che tutto sommato non è cattivo. No, anzi, io già qui da allenatore sono qui che saltello, quindi mi preparo ad una discussione interessante perché, anzi, devo dire, lo stress è proprio, c'ha una doppia visione sia dell'yin e dello yang, come dire, una doppia valenza, perché può essere talvolta lo stimolo, anzi nell'evoluzione è stato assolutamente il nostro stimolo alla nostra crescita, all'evoluzione, a cercare situazioni diverse, a consentirci di adattarci. Questo è fondamentale, ma infatti il termine inglese che è stress è sollecitazione, e sollecitazione può essere sia in un senso, anche intrigante se vogliamo, e anche nell'altro, quindi abbiamo tutti gli aspetti positivi e negativi che possono valere. È ovvio che per noi la situazione è legata, dobbiamo immaginarci 800.000 o milioni di anni fa, quindi in una situazione in cui le sollecitazioni del mondo esterno ci consentivano ad esempio di combattere, ed è di combattere, di fuggire, di prendere delle decisioni improvvise, e sono gli elementi più importanti perché ci possono mettere in grado di mantenere la nostra vita. Quando nasce il problema? È quando lo stress diventa prolungato, diventa costante, allora nascono tutta una serie di controeffetti di cui magari poi nel corso della nostra comunicazione parliamo. E quindi stress dopo stress, lo stress diventa cronico, lascia il segno e può colpirci. Noi abbiamo proprio usato, no, questa metafora, il stress ce le suona e becca una parte specifica di noi. Ciascuno di noi ha un punto fragile nei confronti dello stress. Sì, è bello tra l'altro quando si lavora sul piano clinico, è proprio l'idea di andare a cercare e capire dove una situazione che può essere uguale per tutti in realtà va a colpire in maniera differente, ma basta fare alcuni esempi. Pensiamo alle persone che sotto stress si gonfiano, quindi dicono: ah, ho avuto una giornata pesantissima, ne ho sentito qui, sono come un rospo. E questo è classicamente l'effetto, ad esempio, degli ormoni cortisonici, del cortisone che noi produciamo per mantenere forte il nostro organismo in grado di rispondere e di reagire. Però nell'uso continuativo è come prendere il cortisone. Poi uno dice: certo, cosa fa il cortisone? Magari migliora un'infiammazione ma ti gonfia. Oppure quelli che dicono: ma ho delle tachicardie improvvise, strano, allora dal cardiologo in ospedale a vedere, non c'è assolutamente nulla, e lì è l'adrenalina che viene sparata fuori in condizioni di stress per consentirti di fuggire o di combattere e che batte sul cuore. Oppure persone che cedono, cioè di fronte allo stress non hanno più la capacità, hanno esaurito tutte le risorse. Questo è pesante, cioè sì, gente perché un po' diventa una vita un po' piatta. Ti dice spiattellato, sono sì, spiattellato. Sono spiattellato, la stessa cosa che l'ho raccontato di me. Allora, quindi è vero che non esiste lo stressometro, ma è vero che ciascuno di noi risponde allo stress in modo diverso. Ci sono dei punti deboli che vengono più spesso presi di mira. Il dottor Speciani ha ricordato il gonfiore, la tachicardia, oppure questa sensazione di sentirsi spiattellato a livello emotivo, di non avere più emozioni e non siamo più in qualche modo, no, attratti da niente, da nessuno. Se l'idea le piace, dottor Speciani, potremmo fare psiche, soma, eros. Dove batte lo stress? Qual è la tua zona grigia? Non è male, eh? Un richiamo per essere di lunedì mattina è un bello stimolo, dai, va bene. 800 24 00 24, mi raccomando, noi siamo su Facebook e come mi invita a fare Laura Vanossi, twittateci, si dice così, e quindi potete seguirci anche su Twitter e naturalmente seguite ogni giorno anche il nostro Daily Lab, dove tra l'altro scrive il dottor Speciani. Allora, soma, eros, psiche, dove batte, gonfiore, tachicardia, ma anche sintomi fisici, oppure le emozioni che tendono a ingrigirsi, spegnersi, la voglia di non fare nulla, nessuno ci intriga più. 800 24 00 24. Vogliamo però lanciarvi come sempre il nostro quizzettone. Perché? Perché il dottor Speciani, con il dottor Speciani abbiamo fatto uno scambio. Lui mi ha portato a prevenire e curare la depressione con il cibo, Rizzoli Editore, mentre io gli ho dato un regalo. Fantastico, un regalo piacevolissimo per un amante del cacao come me. È ho scelto una tavoletta di cacao fatto bene, ovviamente fondente, noir, 75% brasiliano. Che mi è arrivato oggi in dono da un amico anche di Essere Benessere che ci ascolta sempre, che è Silvio Bessone, che è un grande artista del cioccolato. Allora, avendolo lì, ed è stato proprio il mio regalo che ha ispirato il quizzettone di oggi. Quiz semplice e apparentemente intrigante. Allora, cacao. Sappiamo che il cacao ha delle valenze antistress importanti. La domanda sembra semplice, invece non lo è perché è un po' a trabocchetto. Qual è la sostanza dentro il cacao, di cui il cacao contiene, le bacche di cacao contengono molto, che ha una valenza di controllo dello stress e di miglioramento dello stato nervoso? 800 24 00 24. Che cos'è questo profumino? Beh, forse sono io. No, è odore di sugo. È avanzato qualche panino? Senti, Janet, io non credo che ti faccia bene mangiare gelato tutto il giorno. Stai ingrassando troppo. Intendi dire che sono grassa? Sì. Sì, intendo dire che sei ingrassata parecchio e che stai facendo finta di niente da quando sei tornata a casa. Cosa vuoi dire, Michael? Jay, sto solo dicendo che sei partita da via degli appena paffutelli, hai superato l'incrocio di Corso Taglieforti e sei andata a finire proprio in mezzo a Mongolfiera Avenue. Lo stress può giocare anche col l'ago della bilancia. Ci sono persone che sottoposte a stress dimagriscono, fortunelle, altre che prendono chili. Dottor Speciani. Ma intanto sono immediatamente contrario a quel concetto del dimagriscono sotto stress, perché in realtà quando li misuri in realtà perdono un mucchio di massa muscolare e restano poco pesanti e poco muscoluti, quindi cioè davvero può essere una perdita, ciofeca assoluta. Dall'altra parte distinguiamo quali sono gli elementi che spesso caratterizzano l'atipico ingrassamento da stress, chiamiamolo così, ed è quello legato un po' all'eccesso di cortisolo. E quindi lo possiamo abbastanza riconoscere, è un po', assomiglia un po' al tipo di obesità del diabetico, quindi la grossa panciotta fondamentalmente, e quindi non la bella obesità ginoide femminile come si chiama, quelli fatti un po', ma quindi la distribuzione del grasso sulla pancia con le gambe che rimangono molto sottili ed asciutte con poco muscolo. Questa è una tipica situazione. Chi ingrassa specificamente sulla pancia è tipicamente uno che non dorme, che ha dei problemi di tensione costante continuativa, è un po' un'immagine per riconoscerli. Dai. Naturalmente possiamo anche dare dei suggerimenti a chi ultimamente è particolarmente sotto pressione e vede che la sua forma fisica è cambiata, il grasso si è concentrato nella parte addominale e quindi ha lasciato questa sproporzione, questa distribuzione differente. Dottor Speciani. Sì, sono consigli, mi piace dirlo, perché sono i consigli che in realtà non servono solo per questo tipo di grasso, ma servono anche per prevenire anche tutta una serie di malattie o di disturbi che poi sono correlati anche allo stress, quindi alla perdita di controllo sul nostro organismo. Lo diciamo, il camminare, il muoversi, già questo crea un miglioramento della sensibilità insulinica, quindi nel modo in cui noi gestiamo con gli zuccheri il nostro rapporto, ed ecco che semplicemente una sana una passeggiata di mezz'ora al giorno fatta di buon passo va a compensare. Ma è uno dei trucchi che talvolta i comportamentalisti ci insegnano. Certo. No? Vai a camminare così. Ti liberi anche un po' la mente. Esatto. Il problema, dottor Speciani, è che le cose semplici, quelle che non dobbiamo pagare, quelle che non dobbiamo organizzare, eccetera, tendiamo a non farle. Ma dato che io vi ho invitato a seguirci su Twitter e su Facebook, voglio leggervi subito il messaggio di Loredana. Loredana credeva di essere sufficientemente forte per non subire lo stress, ma purtroppo dopo un anno difficile lo stress si è scaricato completamente sulla sua schiena, facendole capire che è ora di cambiare, soprattutto di prendersi cura anche di se stessa. Loredana è già, ha già vinto, ha già svoltato. Sì. È vero. È bellissimo. Questa cosa che dice Loredana è fantastica, nella misura in cui dice: finalmente ho capito che devo fare qualcosa. Allora, il dolore, il fastidio, l'ingrassamento, le modifiche, come la signora che abbiamo sentito prima, che attraversava i corsi grassi, no? Ecco. In realtà sono degli elementi che ti dicono: guarda che hai superato un limite. A volte noi siamo ciechi, il corpo lancia per anni dei segnali importanti e noi non li prendiamo. E va, dai, ci vuole un po' di attenzione, c'è un po' di vitamine per la vista, non lo so, qualcosa di questo genere. Perché davvero Loredana brava, direi che il senso della rigidità, pensa che l'irrigidimento della schiena è una delle cose che i pediatri provano appena nascono i bambini, gli fanno una specie di movimento di perdita di contatto, il bambino ha questa reazione di irrigidimento della schiena, il riflesso del fuggi o combatti che viene, sì, provato, serve per saggiare l'integrità complessiva dei sistemi neurologici, e perché noi irrigidendo la schiena ci prepariamo ad andare via, come dire, a portare lontano dal pericolo la nostra situazione, che è un dato importantissimo, mantenuto nel tempo, però fa venire il mal di schiena. Pensiamoci, ragazzi, a volte il mal di schiena è un segnale di qualcosa che dobbiamo iniziare ad evitare. Elena ci chiama dalla provincia di Mantova, 800 24 00 24. Intanto continuate a chiamare il nostro numero verde se volete rispondere al quizzettone che ha suggerito il dottor Speciani, proprio perché ha ricevuto in dono una preziosa tavoletta di cioccolato. Elena, buongiorno. Buongiorno. Io facevo una domanda. Se gli attacchi di panico possono essere considerati una forma di stress, oppure se c'è una base biologica, qualcosa che li distingue, insomma, dallo stress, dalla fatica fisica e psicologica comune, ecco. È una bella domanda, Elena, e rispondo subito dicendo che nell'attacco di panico c'è comunque sempre una componente fisica e biologica molto precisa, tant'è che a volte si può paradossalmente ricreare la condizione di un attacco di panico respirando o cambiando il respiro dentro ad un sacchettino, no? Questa è una cosa che più o meno è conosciuta un po' da tutti. Allora, quindi cambiando semplicemente la concentrazione di CO2, di anidride carbonica nel nostro sangue. Per cui è vero che il fatto di mangiare in maniera differente, di avere una carenza di alcune sostanze che in questo momento non dico perché sennò rispondo al quiz e invece aspetto per il quiz poi tra poco, mi sono stato magnifico, bravo, grazie. Bravo. Mi ha guardato, stavo per dirlo, ma invece Nicoletta mi ha guardato con aria feroce, va bene. Per cui è vero, è importante che l'attacco di panico è come la slatentizzazione talvolta anche di un disturbo di tipo fisico e bisogna lavorare in entrambi i casi, si potrebbe dire in maniera un po' new age, un po' più olistica, cioè lavorando sia sulla parte psichica sia sulla parte fisica, dove spesso cambiando la parte fisica, migliorando i minerali, le vitamine e il modo in cui uno si nutre, riesce a combattere meglio anche lo stress che incontra. E a proposito di stress, dottor Speciani, anche le cellule si stressano, anche loro fanno i conti con affanni, problemi, scadenze, sono i radicali liberi responsabili dello stress ossidativo e le citochine infiammatorie che fanno un po' invecchiare le nostre cellule, le espongono ad eventuali problemi, ma noi qua a Essere Benessere siamo abituati a individuare il problema e a suggerire anche delle possibili soluzioni. Sempre. Il kiwi è tra i frutti più ricchi di polifenoli ed è in grado di proteggere l'organismo dallo stress ossidativo. Non solo, ha anche notevoli capacità immunostimolanti. A spiegarlo, dalle pagine del Biological and Pharmaceutical Bulletin sono i ricercatori giapponesi della Teikyo University di Tokyo, i quali affermano che nello specifico la varietà di kiwi più ricca di polifenoli sarebbe la Gold. Abbiamo dimostrato, spiegano i ricercatori, che il kiwi ha forti effetti antiossidanti e, in particolare, è in grado di inibire l'ossidazione precoce dei lipidi e di impedire lo sviluppo e il deterioramento delle malattie causate dallo stress ossidativo. Un kiwi al giorno forse toglie lo stress di torno, almeno alle cellule, dottor Speciani. Utile come gran parte, devo dire, di tutti gli antiossidanti. Devo dire poi per storia, per struttura, noi adesso il kiwi sta diventando anche di casa nostra, quindi ci sono delle ottime azioni dal kiwi, ci sono delle ottime azioni anche da tanto una serie di altri prodotti più di casa nostra come i mirtilli e le fragole, no? Certo. Però è vero che usando degli ottimi antiossidanti, quindi questi polifenoli che sono presenti, devo dire, in tante in tanti alimenti. Uno, ad esempio, il cacao, ma non è la risposta al quiz. Bravo, quindi abbiamo già. Per cui, lavorando col kiwi in qualche modo, in maniera sensata, possiamo creare delle ricette, ne sono convinto, che danno un beneficio complessivo. Per cui sono curioso poi di sentire come organizziamo con la nostra sorpresa. E la nostra sorpresa è Giuseppe Capano, che saluto. Buongiorno. Ciao a tutti. Chef specializzato in cucina di gusto, benessere e salute, autore di La cucina con la frutta. Il mio amico Eddie da Prato, che ci scrive sempre al 349-238-6666, ci dice che oggi è la giornata del vegetariano. Potevate fare una puntata su questo, ci suggerisce, perlomeno ricordatelo. Allora, su invito di Eddie da Prato, ricordiamo questa giornata e ci occupiamo di kiwi. Signor Capano, noi siamo abituati a consumarlo al mattino, magari a colazione, ha un effetto un pochino lassativo e quindi è sicuramente una mano santa per molti di noi, oppure come frutta lo mettiamo magari nelle macedonie, ma con lei avremo bisogno di avere uno spunto, uno sfizio in più per consumarlo di più e meglio. Sì, io ho pensato a questa ricetta molto semplice in cui usiamo il kiwi a crudo, senza cotture, in modo da valorizzarlo al massimo in tutte le sue potenzialità. Si prende un po' di acqua, un po' di zucchero, proprio pochissimo, un cucchiaio, si fa cuocere con pochi minuti con quattro semi di anice stellato, io mi riferisco a quattro persone, sì. Si fa uno sciroppo profumato all'anice stellato, i kiwi invece vengono sbucciati, tagliati a cubetti e conditi con questo sciroppo di anice stellato freddo, l'anice stellato viene tolto momentaneamente. Poi si prendono delle mele, si tagliano sempre a cubetti come abbiamo tagliato i kiwi, si condiscono con un po' di limone per non farle diventare nere, cannella e, se si vuole ma non è obbligatorio, un po' di miele oppure anche di malto di cereali. Poi si mettono insieme i kiwi con le mele, sì. Si fanno delle coppettine e si guarniscono, si decorano con l'anice stellato che avevamo messo da parte e un po' di nocciole sgusciate e tritate, ci piace perché se proprio si vuole esagerare, ma forse qui non è il caso, qualche scaglia di cioccolato fondente. Ma no, guardi che noi qua esageriamo a essere benessere. Anzi, se posso dare un suggerimento, rallenterei lo zucchero messo prima e metterei più cioccolato dopo, fondente, ma fantastico, certo, bellissimo. Sì. Poi lì dipende molto in realtà da come il kiwi, perché alcuni kiwi sono abbastanza acidini e quindi un po' di zuccherino aiuta a spegnere. E poi soprattutto mi piace Giuseppe l'abbinamento con l'anice stellato, che dà un profumo incredibile, perché noi mangiamo anche di col profumo. Certo, sì. Allora, dottor Speciani, sappiamo che ci sono comunque degli alimenti che contengono sostanze che ci aiutano non a ridurre e cancellare lo stress, perché non c'è niente di magico, non è neanche la bacchetta magica, ma in qualche modo a cavalcarlo, a non pagarne tutti gli effetti negativi. Proviamo a ricordarne qualcuno. Ma ce ne sono diversi. Uno è quello che abbiamo già richiamato più volte, quindi il cacao nelle sue varie espressioni. E poi secondo me, ad esempio, mi piace perché la gente pensa poco a questo aspetto di come, per dire, il contenuto in omega 3 di alcune sostanze può essere estremamente positivo, per cui il salmone o i pesci comunque grassi, hanno degli ottimi contenuti di omega 3. Tra i volatili il tacchino è senz'altro l'animale che ha un maggior contenuto di omega 3 nelle sue carni, e poi che sono delle ottime fonti di proteine che vanno benissimo anche come integrazione per tutti, oltre che per i vegetariani, e che sono le mandorle. Allora, sono tre cibi che hanno all'interno, oltre ad essere buoni di per sé, delle potenzialità, delle valenze importanti. Salmone, tacchino e mandorle. Giuseppe Capano, le lancio questa sfida. Riesce a prepararci un piattino veloce, rapido, economico, sfizioso, con questi tre ingredienti? Ma io sceglierei salmone e mandorle. Salmone e mandorle, va bene. Un po' di difficoltà. Allora, eliminiamo il tacchino, prendiamo il salmone, le mandorle. Magari possiamo aggiungere i pomodori. Possiamo aggiungere i pomodori? Sì. Allora, tre ingredienti, salmone, pomodori e mandorle. Lasciamo Giuseppe Capano, che così pensa a un piattino per noi. Lo lasciamo lavorare. Siamo tornati insieme. Oggi parliamo di stress e non solo. Dove picchia soma, psiche, eros. Ma da Facebook Marco mi scrive: mi mette a KO colpendo le funzioni intestinali. È un'invalidità vera e propria. Dottor Speciani, secondo cervello messo a KO dallo stress. È interessante questa cosa, perché da un lato l'intestino risponde cercando di mettere in moto dei meccanismi di difesa, a volte perdendo una di quelle sostanze importanti che ho detto che sono presenti nel cacao, invece all'opposto, portandosi ad una situazione di immobilità, no? E di fatto è vero che il disconforto intestinale, quindi la situazione che è legata poi alla percezione, è uno dei nostri segnali d'allarme. Io proprio lo spiego: noi dobbiamo leggere le malattie non come malattie, come se fossero delle entità a sé, ma come delle luci di emergenza che si aprono. Anzi, io le chiamo le benettie, spesso e volentieri, perché in realtà ti danno un segnale e tu le devi gestire. Un consiglio allora per Marco e per... sono davvero tanti gli ascoltatori, le ascoltatrici soprattutto, che mi scrivono: bene, la prima cosa che mi si blocca è l'intestino. Hai detto bloccare. Allora, nel momento in cui si blocca l'utilizzazione, beh, tra poco ci arriviamo, perché non voglio dare la risposta, però l'hanno già data. Ricordiamo che il nostro quizzettone era: qual è la sostanza contenuta nel cacao che aiuta a gestire lo stress riequilibrando il sistema nervoso? Diciamo che quella stessa sostanza riequilibra moltissimo anche le funzioni intestinali, quindi, che va utilizzata. State in ascolto. Quindi state in ascolto e la scoprirete. 800 24 00 24. Per oggi il quizzettone è dedicato agli ascoltatori che possono mettersi in contatto con noi. Nei prossimi giorni troveremo modo invece di coinvolgere gli ascoltatori che ci stanno seguendo e scrivendo su Facebook. Luca D'Ancona, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, eccomi qua. Allora, io sono Luca, ho 45 anni, chiamo dalla provincia di Ancona. Da circa un paio d'anni che vivo comunque un periodo molto molto stressante, mi è caduto proprio quello che stavate dicendo prima, cioè ho messo su parecchia pancia e parliamo di circa 15 kg in più, mantenendo inalterate ovviamente le gambe, tutta la muscolatura delle gambe sono ingrassate affatto. E ovviamente ho messo tutto sulla pancia e sento proprio che sto somatizzando lo stress. Per cui, al di là della camminata che è stata consigliata e che ovviamente è una panacea quasi per tutti i mali, volevo sapere se c'è anche qualche altro rimedio, perché magari, voglio dire, a volte col tempo brutto, tutto quanto, la camminata non si riesce a fare. Però diciamo questo. Allora, i segnali di pericolo, il motivo per cui l'accumulo è tutto lì, è perché il suo corpo globalmente sta ricevendo dei segnali di pericolo. Quindi normalmente noi dal paleolitico abbiamo imparato che di fronte ad un segnale di pericolo scatta una lucina che dice: presto, tutto quello che passa di qua, che abbia un minimo di valenza energetica, lo mettiamo in scorta, perché non si sa mai cosa possa succedere nel futuro. Allora, lo stare fermi è un segnale di pericolo. Nel paleolitico le persone ferme e immobili erano quelle ferite e malate. Ma le do un altro suggerimento: di fare assolutamente una prima colazione, cioè piuttosto svegliandosi mezz'ora prima, ma fare una prima colazione lenta, progressiva, masticata, che diventi il pasto principale della sua giornata. È una delle condizioni più importanti per ridare all'organismo uno stimolo metabolico forte. E l'ultimo: usi lo zucchero solo quando crea dei dolci buoni, sani, a fine di un pasto, nell'insieme, quando fa una bella torta integrale, voglio dire, perché sennò lo zucchero come dolcificante, se è presente nella sua alimentazione, rappresenta un altro degli stimoli che porta l'organismo a mettere tutto lì nel posto sbagliato. Lucia ci chiama dalla provincia di Arezzo, mi segnalano dalla regia che vuole rispondere al nostro quizzettone. Lucia? Sì, pronto. Buongiorno a lei. Buongiorno. Ha trovato la sostanza presente nel cacao che riesce ad aiutarci a gestire lo stress riequilibrando il sistema nervoso? Beh, io penso proprio di sì. Sì. Sì. Credo che sia la teobromina. Allora, quando io prima facevo il quiz dicevo: ragazzi, guardate che è una domanda tranello, perché ovviamente noi sappiamo che caffè, cacao e tè hanno dentro delle sostanze importanti che sono stimolanti del sistema nervoso. Quindi sbagliato! Sbagliato, Lucia è uno stimolante, stimolante. Era un uomo felice e realizzato, il giorno dopo mi viene un attacco di impotenza totale svenente. Che appena uno dice la parola impotenza cala il gelo, perché tutti o da una parte o dall'altra avete sperimentato questo disastro, ed è una situazione veramente pazzesca, perché l'impotenza scatena l'ansia dell'impotenza che scatena l'impotenza che scatena l'ansia dell'impotenza. Insomma, è un casino. Eh sì, insomma, è un circolo vizioso, amore e stress non vanno affatto d'accordo, a volte proprio per questo la coppia va in tilt, i pensieri, le preoccupazioni, le ansie, i malumori avvelenano, diciamo così, il nostro cervello e il sistema nervoso forse risponde, forse dico, ma me lo voglio chiedere al professor Emanuele Iannini che è in linea con noi, docente di sessuologia medica dell'Università degli Studi dell'Aquila che è tornato a trovarci e io sono molto contenta. Buongiorno professore. Buonasera, buongiorno a tutti. Lo stress toglie ogni fantasia? Beh, diciamo che delle tante cose, dei tanti guai che possono succedere a questa macchina un po' fragile che è la nostra sessualità, l'attacco dello stress è probabilmente il più grave, il più incisivo. Noi abbiamo un sistema di rilevazione dell'ambiente e quando ci accorgiamo che l'ambiente è, come dire, in qualche modo ostile, reagiamo attraverso una sostanziale inibizione del nostro comportamento sessuale. C'è un motivo di tutto questo, il motivo è dato dal fatto che il sesso in una condizione, come dire, perfettamente naturale, prima si faceva riferimento appunto a questo uomo delle caverne, ebbene il sesso è un momento di estrema debolezza, quindi quando c'è uno stress, immagini una tigre dalle lunghe zanne che entra in una caverna mentre due nostri antenati stanno facendo l'amore, la prima cosa che deve fare il nostro organismo è quella di chiudere tutte le porte stagne, diciamo così, che vanno verso la sessualità per rivolgersi invece verso l'attacco e la fuga, che sono i due modi di sopravvivere di fronte appunto al pericolo. Lo stress è questo pericolo e quindi reagiamo chiudendo, bloccando tutte le afferenze sessuali. Professore, lo stress non aiuta, ma mi scusi, non rischia di diventare un alibi? Istruzioni per uomini e per donne, perché lo stress non è galantuomo, non ci risparmia. No, ha ragione, nel senso che sono gli entrambi i sessi in qualche maniera, anche se poi c'è una grande variabilità individuale, ci sono delle persone che sono perfettamente capaci, ed ecco il consiglio, di chiudere fuori dalla porta della camera da letto tutto ciò che è appunto, che chiamiamo stress, anzi distress, cioè stress negativo, perché stress in realtà è una parola molto generale, vuol dire sollecitazione, vuol dire cambiamento dell'organismo di fronte a una sollecitazione, che può anche essere un eustress, cioè uno stress buono. Ma di fronte ad uno stress cattivo, per l'appunto, l'abilità di chiudere la porta della camera da letto e lasciare fuori queste cose diventa, come dire, anzi addirittura uno stimolo all'attività sessuale ben concepita, ben fatta. Purtroppo non accade a molti, anzi. La maggior parte invece di noi si porta dietro la preoccupazione del mutuo, il capufficio, i problemi con i figli, eccetera, eccetera. E questo naturalmente invade la nostra dimensione sessuale che, come dicono gli antichi proverbi, non vuole pensieri. E con questo non vuole pensieri indichiamo proprio la necessità di mettere fuori la dimensione stressante per appunto dedicarsi totalmente all'interesse sessuale. Quindi è un terzo incomodo che dobbiamo cercare di tenere fuori dalla porta. Questo potrebbe essere molto stimolante, una sfida che la coppia può giocare insieme. Diciamo così, eh? Assolutamente sì. Grazie professore, torni presto. Buona grazie giornata. A voi, buona giornata. Grazie. 800 24 0024 Facebook, Twitter, ormai sta diventando un tormentone. Mi sono dimenticata di dirvi che dovete scaricarmi. Anzi, secondo me scaricare Essere Benessere porta buono, quindi la butto anche lì. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Mi piace questa cosa, mi toglie lo stress. Un po' ce l'ho quando si accende la luce, ma poi chiacchierando, ad esempio con Giuseppe che ci chiama da Piacenza. Buongiorno. Buongiorno a lei. Eccomi. Io volevo dire che intanto sto vendemmiando. Che però bello. Quando sono in pensione, quando lavoravo facevo l'autista e mi ero reso conto, non riuscendo più a parlare, comunicare né con mio figlio né con mia moglie, che ero troppo stressato. E loro hanno deciso che così non si poteva andare avanti e sono riuscito a combattere lo stress. Io mi alzavo la mattina alle 2, alle 3. E parlandomi allo specchio e rispondendomi e dicendo durante la giornata non mi devo più arrabbiare, non me la devo più prendere, e quando durante la giornata, perché facevo l'autista, succedeva qualcosa che non mandava, ma arrabbiavo e poi mi dicevo ma allora stamattina di cosa abbiamo parlato? Io nel giro di un mese e mezzo sono riuscito a eliminarlo completamente. Fantastico. E si comincia a rivivere una seconda vita, le dico veramente. E lei cosa sta vendemmiando, Giuseppe? L'uva. Sì, ho capito, ma che cosa, che vino produce poi? No, beh, io sto raccogliendo per degli amici, ma qua si produce quello in Piacentino, il Bonarda, il Turno. Eccola lì. Allora, senti, ma che bello Giuseppe. Allora, in realtà lui ha riconosciuto un problema. E questa è una sequenza importantissima, cioè ha letto uno dei sintomi dell'organismo, l'ha riconosciuto come un problema e l'ha trasformato in opportunità. E quindi di fronte a questo tipo di situazione ha iniziato ad allenare le modalità distorte con cui il suo organismo rispondeva. Perché vive le situazioni prima, possiamo darlo come consiglio? Sì, può essere, nel senso che lui ha iniziato effettivamente a riportare, ha fatto una specie di analisi cognitiva da solo, da se stesso, guardandosi allo specchio, cioè in effetti ha iniziato a guardare se stesso mentre parlava, quindi a riconoscersi come con un occhio visto dall'esterno, che è fondamentale. A volte i terapisti aiutano in questo, lui l'ha fatto da solo, bravo. Bravo Giuseppe, quasi mi piacerebbe dargli anche un libro a Giuseppe. Glielo portiamo per la prossima. Glielo portiamo per la prossima. Comunque teniamo il suo contatto e soprattutto buona vendemmia. Chissà che cosa ha combinato per noi Giuseppe Capano, che l'abbiamo in linea. Buongiorno. Sì, sono qua. Il nostro chef. Allora, gli ingredienti, tacchino. Sì, tacchino, andrei... pomodoro e mandorle, giusto? Sì, esatto. Era giusto? Salmone. Giusto. Salmone, ho detto il tacchino ma era il salmone. Salmone, scusi. Sì. Ok, ricettina? Allora, velocemente, si prende del salmone, può essere a tranci o a filetti, come si preferisce, si fa marinare brevemente con un po' di olio in cui si è sciolta un po' di curcuma, un po' di sale e un po' di erba cipollina. E poi si prendono dei pomodori pacchino, si tagliano a spicchi, si condiscono con poco olio, sale, un po', uno spicchio d'aglio intero, si fanno saltare all'ultimo momento, proprio poco prima di servire, un minuto a fuoco alto, molto semplicemente in modo da lasciarli semicrudi. Il salmone invece, una volta marinato, viene impanato con delle mandorle tritato, messo in forno 10 minuti e poi si serve tutto insieme, il salmone alle mandorle accompagnato con i pomodori pacchino saltati all'ultimo momento. Ma questa è magnifica. Spero che sia stato abbastanza chiaro. Ma è stato chiarissimo, ma intanto io dico alle mie ascoltatrici, anche agli ascoltatori, che questa ricetta firmata Giuseppe Capano la trovate sul sito, sulla pagina di Radio 24 e forse Laura Vanossi la mette anche su Facebook, non si sa, ma sì, mi sta dicendo. Quindi andate, scaricate. E vi voglio dire anche un'altra cosa, oggi sulla nostra pagina troverete anche a metà pomeriggio dei suggerimenti, degli esercizi che ci farà fare Alessandra Callegari, che voi conoscete già, è counselor, esperta di bioenergetica e formatrice, che ci darà degli esercizi per prendere consapevolezza delle nostre tensioni, delle nostre emozioni. Non cancelleremo naturalmente lo stress, ma con i suoi consigli ci fermeremo e proveremo con la respirazione, magari mentalizzando, facendo dei pensieri positivi, a regalarci un attimo di eustress, dello stress buono. Dottor Speciani, abbiamo 3 minuti. Ah, che bellezza. Potremmo fare di tutto in di tre tutto? Minuti. Beh, dipende. Quasi, circa, ci sono 3 minuti che sono troppo pochi comunque, in alcune cose. Assolutamente no? Sì. Per cui, no, io mi piaceva richiamare, tra l'altro è uno studio fatto su persone che hanno la mia età, quindi sono ragazzi del 1955. Che è una bellissima, età, fantastico. Come il vino di prima del signor Giuseppe, di uno studio fatto alle Hawaii, tra l'altro nell'isola di Kauai, che è la più spirituale, la più bella, la più lontana da Honolulu fondamentalmente, e leggendo quello che queste persone erano in grado di fare rispetto alla resistenza allo stress, cosa si è scoperto? Si è scoperto che tutte le persone che in realtà avevano avuto dei drammi, delle storie potenti di sofferenza nella propria vita, quindi erano stati sottoposti a stress e che l'avevano superato, erano in realtà estremamente più positivi nei confronti della loro vita, avevano un vissuto sicuramente più aperto, più morbido, più adattabile alle condizioni di difficoltà e vivevano decisamente meglio. Allora lo dico perché è quello che è l'elemento legato, si chiama un concetto nuovo, che è quello della resilienza, la capacità di resistere a situazioni problematiche e di trasformare, questo lo dico e così concludo, dei problemi, come abbiamo detto prima Giuseppe, in opportunità. Quando una situazione sembra assolutamente irrisolvibile, spesso ponendosi al di fuori, come ha fatto prima Giuseppe guardandosi e parlandosi, si riesce a ritrasferire questo tipo di difficoltà nell'energia che diventa la forza per la nostra progressione. E noi andiamo a Raffaele, che ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno Raffaele. Buongiorno a voi. Eccoci. Qual è? Pronto? Qual è la sostanza che aiuta a gestire lo stress riequilibrando il sistema nervoso? Il magnesio. Perché Matteo Comes non ci ha messo l'applauso, ma può metterlo? Dai, grazie. No, non ce la facciamo, alla prossima glielo faccio io di cuore. È giusto, è il magnesio. È il magnesio. Noi parlavamo proprio di azione riequilibrante e il magnesio non solo riequilibra l'aspetto nervoso, ma ha un'azione anche sul controllo dell'insulina, quindi vale anche per tutti quelli cicciottini da stress. Raffaele, grazie, complimenti, grazie a voi che ci avete seguito. Vi ricordo Facebook, Twitter, scriveteci, chiamateci, scaricateci, dottor Speciani. Grazie, ricordo che Matteo si porterà a casa Prevenire e curare la depressione con il cibo, scritto dal nostro dottor Speciani, che incontreremo prestissimo, anzi possiamo dirlo il prossimo lunedì. Grazie dottor Speciani. Grazie a tutti voi e buona giornata. Matteo Comes in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Ho ancora 2 secondi per dire passatevela bene, buonissimo pomeriggio, io vi aspetto domani.